Radio 24 Reportage. Su queste note torniamo a passeggiare lungo il South Bank in compagnia dei diversi musicisti che animano l'area lungo il fiume. Anche quest'estate la zona è vivacissima. Ci si viene volentieri per una passeggiata, per un cocktail sulle belle barche adibite a luoghi d'incontro, per mangiare qualcosa, per godere del tramonto e della splendida vista o dell'offerta che questo grande centro culturale e artistico offre alla città, con la serie di eventi anche gratuiti che si tengono in quest'area che va dal Royal National Theatre alla Tate Modern fino allo Shakespeare's Globe. Il centro, il complesso di sale da concerto costituito dai tre edifici principali, la Royal Festival Hall, la Queen Elizabeth Hall e la Galleria d'Arte di Hayward, rimane il complesso artistico più grande d'Europa e chiama più di 3 milioni di visitatori all'anno a godere di musica classica, world, rock, pop, jazz, danza, arti visive e letteratura. Uscendo dalla Tate Modern e proseguendo lungo la riva sud del Tamigi in direzione del London Bridge, passiamo davanti allo Shakespeare's Globe, quindi il celebre teatro ricostruito negli anni 90, come si sa identico a quello originale, il Globe Theatre, dove recitò la compagnia di Shakespeare. Lo incontriamo qui vicino al Blackfriars Bridge, dal lato opposto della cattedrale di St. Paul, progettato nel 1987 per creare un teatro che accogliesse le opere del poeta e che diventasse luogo di ricerca per studenti, per accademici e professori. La ricostruzione nel luogo originario è davvero affascinante, con pianta circolare. Per accomodarsi si possono prendere i cuscini che vengono offerti all'ingresso oppure stare in piedi davanti al palcoscenico proprio come un tempo. Ospita ogni anno una stagione teatrale da maggio a settembre che programma opere di Shakespeare messe in scena da una compagnia completamente maschile come all'epoca e che utilizza costumi elisabettiani. Un'esperienza da provare con una grande partecipazione di pubblico. They shall not live within this world, I swear, but I will have them if I once know where. Uncle, farewell. And cousin, adieu. Your mother well hath prayed, and prove you true. Come, my old son, I pray God make thee new. Lasciamo il Globe per dirigerci verso il South Bank Center. Dicevamo, qui c'è sempre grande fermento, c'è chi passeggia, chi si rilassa sugli spazi verdi o dà uno sguardo ai libri del piccolo mercato sotto il ponte di Waterloo, dove si possono fare sempre buoni affari. O c'è chi si sofferma a guardare i performer, i musicisti, anche sotto alcuni dei ponti sul Tamigi, dove si gode di un particolare effetto acustico più raccolto. I londinesi amano davvero il South Bank, come ci racconta Alan, che ha deciso di trascorrere qui la serata. Well, how you enjoy the South Bank is by walking along the South Bank. Il modo per goderti il South Bank è passeggiare lungo il fiume. Vieni dal Palazzo del Parlamento, attraversi il fiume, passi il National Film Theatre, la Royal Festival Hall, la Tate Modern, il Globe Theatre, finché arrivi alla City Hall. E se guardi al di là del fiume, vedi la Tower of London. Camminare lungo il fiume è un bel modo di scoprire la città. Qui si tengono molti eventi, ci sono palazzi e opere architettoniche di pregio, spettacoli di ogni tipo. Puoi fermarti a mangiare o bere qualcosa, vedere una mostra, un concerto di musica classica o di hip hop. Puoi anche prendere un sdraio, rilassarti nel prato o semplicemente fermarti a guardare e ammirare la vista su Londra. Questa è una città davvero internazionale, con gente che arriva da tutto il mondo e viene lungo il Tamigi per l'atmosfera che caratterizza questa parte della città e per vedere spettacoli e performance o semplicemente per godere di questa vista fantastica. Ci sono le barche, un clima vivace e stimolante, una bella luce, il tramonto, insomma, c'è così tanto da vedere che ogni giorno mi rendo conto che Londra è un luogo davvero unico, da consigliare a tutti. E se il tempo è bello, questo è il miglior posto sulla terra. It makes London feel like the best place on earth. Qui ci sono artisti di strada di ogni genere, danzatori, mimi, performer di ogni tipo, mostre temporanee all'aperto che espongono grandi opere d'arte come le sculture d'acqua, le celebri Appearing Rooms che anche quest'anno fino a ottobre per la gioia dei bambini invitano gli avventori a entrare tra le pareti d'acqua a far parte dell'opera d'arte. La fortunata serie poi di Summer Exhibition della Hayward Gallery rilancia la tradizione di invitare famosi e promettenti artisti di tutto il mondo, trasformando la galleria in un unico spazio espositivo interno ed esterno. Quest'anno 10 artisti sono stati selezionati per esporre opere che esplorano i meccanismi della mente, e quindi emozioni, pensieri, memorie e sogni, in un viaggio quindi in tre dimensioni per indagare il processo creativo degli artisti. Si intitola Walking in My Mind. C'è solo da scegliere, insomma, la zona offre un gran numero di eventi culturali. Poi c'è l'Adder Valley, uno spazio allestito in un grande tendone, un grande tendone a forma di mucca viola capovolta, a pancia in su ospita eventi spettacolari che vanno dalla comicità al circo, alla musica, al teatro, agli spettacoli per bambini. Uno dei momenti più attesi era quello con i Tom Tom Crew, questi ragazzi che dopo la stagione sold out alla Sydney Opera House, al Festival di Edimburgo e prima di Broadway, si esibiscono a Londra in questa formula esplosiva e piena di energia che unisce circo acrobatico, hip hop e comicità per quello che viene definito spettacolo del XXI secolo, che comprende sorprendenti giochi musicali fatti senza strumenti ma utilizzando unicamente la voce. Hi, ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you a very special friend of mine, Mr. Smokey Jefferson on the double bass. Una parte dello spettacolo consiste in un divertente concerto di Omnicord, lo strumento musicale di tipo elettronico costruito dalla Suzuki e utilizzato da molti artisti, tra cui Bob Dylan, Bjork, Brian Eno. Il modo più semplice per farlo suonare è quello di premere i bottoni nella parte superficiale dello strumento che, essendo collegati a corde, producono questo suono. Tra gli innumerevoli festival c'è anche quello che si tiene a inizio estate ogni anno, organizzato dalla Tate Modern, che propone una serie di eventi per celebrare arte, musica, danza e film. Si intitola The Long Weekend, il grande festival di performance e appuntamenti gratuiti che si tengono durante il giorno all'interno e all'esterno dell'edificio, con concerti serali a pagamento nella magnifica e ampia Cherbin Hall, la più grande della Tate Modern. Il direttore della Tate, Vicente Todolì. Sì, facciamo un festival dove c'è anche musica, performance, cinema. Lo facciamo sempre, si chiama The Long Weekend, perché lo facciamo coincidendo con un lunedì che è festivo, allora sono 4 giorni, e là, alla fine di maggio, là, presentiamo i cambi nella collezione, ma anche è una celebrazione per fare coinvolgere... Conquistare nuovo pubblico. Esattamente. Sì, sì, anche, è importante anche sempre vedere come puoi avere un pubblico più diverso, no? È un modo di tutta la gente che passa per il fiume. Abbiamo attività anche fuori, farli un po' entrare. Anche se abbiamo molta gente, perché l'anno scorso abbiamo avuto 5 milioni di visitatori, quest'anno più di 4 e mezzo. Sì, sì. E quest'anno ne abbiamo più di 4 e mezzo, che già è tantissimo. Insomma, lungo il Tamigi ci si può andare a qualsiasi ora, dal venerdì sera per i concerti dei grandi nomi della musica, jazz, blues e folk, oppure anche all'ora di pranzo per i concerti gratuiti nel bar della Royal Festival Hall il venerdì e la domenica. Sulla strada incontro anche un prestigiatore simpatico che gioca alle tre carte con il cilindro e chiede al pubblico di indovinare dove si trova l'arancio che ha nascosto. Put your hand up if you believe the boats have vanished. Put your hand up if you don't care what I did. Oh, the Americans. Put your hand up if you speak English. Oh, baby, baby, there's nothing I wouldn't do. Conclusione di questo viaggio lungo la riva del Tamigi, ritroviamo ancora i musicisti incontrati all'inizio, sono un gruppo folk che si chiamano Cash Cows. Su queste note ci salutiamo citando ancora una volta lo scrittore Samuel Johnson, che i londinesi amano tanto ricordare, e che disse: quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire. Well, hit me, baby, one more time.